Finalmente. Oh, il solito napoletano ritardatario, ditelo su. No, no, ma era tutto calcolato. Sono pronto. Cioè, colpa tua, hai fatto tardi? No. No, non lo sappiamo. Allora, benvenuto. Grazie, grazie. Con grandissimo piacere. Grazie a tutti. Allora, deve cantare qualcuno dopo? Oppure no, no, no. Adesso in avanti siamo soli, si fa per dire. Allora, questa sera, ma io credo di dover eliminare il più delle mie parole, perché secondo me qua ci sono non soltanto degli estimatori, non soltanto dei curiosi, ma dei tifosi, dei tifosi di Maurizio De Giovanni. Però lasciatemi almeno dire che questa serata, a differenza delle precedenti e peraltro bellissime serate con gli altri autori, non si va verso una scrittura, come avete potuto apprezzare ieri e l'altro ieri, verso, diciamo, al servizio della cronaca, piuttosto che al servizio dell'indagine giornalistica o sociologica. Con Maurizio De Giovanni, secondo me, veriamo piuttosto verso un'introspezione letteraria, benché di grandissimo gusto e piacevolezza, che lavora, secondo me, sul dubbio del lettore e sullo spessore della costruzione dei personaggi. Allora, tanto per cominciare, Maurizio De Giovanni, io so, se ho ben avuto notizie, che era funzionario di banca fino a 47 anni, che nel 2005 ha partecipato ad un concorso di giallistica che l'ha vinto e che da lì decollo, immediato. Da cui, peraltro, già in quel racconto c'era il nostro amatissimo commissario Ricciardi. Allora, una prima domanda. Visto che grande scrittura, scrittura fertile davvero, che scrive tantissimo, i cicli sono belli, ricchi e godibili per tutti gli estimatori, io voglio sapere, è vero che scrive un libro in 3 settimane come Maigret, come Simenon, i suoi Maigret e altri ancora? Sì, no, allora qualsiasi frase in lingua italiana che comprende il mio nome, quello di Simenon, è sbagliata da un punto di vista sintattico, come potete immaginare bene. Io sì, scrivo velocemente. Tutti e 12 i romanzi sono stati scritti all'interno di un mese. Cioè ognuno di questi? Ah. Sì, posso tentare di velocizzare ulteriormente, ma non credo di poter arrivare a questi livelli. È vero che mi si fa credere di tutto, però. Sono lunghi i mesi precedenti, quelli che servono per acquisire i dati e i documenti che soprattutto nel caso della serie di Ricciardi servono a, certo, poi strutturare la serie, ma la scrittura in sé, diciamo che io sono convinto che la distinzione grande che si fa in genere tra scrittori di storie e scrittori di parole sia vera, in effetti. Cioè, ci sono scrittori dotati di una capacità straordinaria di scrittura e che non hanno bisogno della storia. Io tipicamente penso a Henri De Luca, per dirne uno, no? Che hanno una tale facoltà immaginifica, una tale attitudine alla poesia, che sono come quei chitarristi così abili negli arpeggi da non aver bisogno di una melodia, sono bravi di per sé. Io invece no, io sono uno che racconta storie. Quindi devo avere la mia storia, la devo avere prima. E attraverso la storia però passa esattamente tutto questo, e questo è quello che e conta. E poi li guardo muoversi, li guardo camminare, li guardo, vado lì fisicamente, cioè, quindi nel periodo della scrittura io non posso fare altro, cioè devo immergere, devo andarci, quindi divento un essere subumano che si lava poco e male, che non si fa la barba, che tiene sempre la stessa tuta addosso. La mia famiglia mi tiene chiuso in una stanza, loro dicono che sia per rispettare la creatività, secondo me si vergognano invece. E quindi tenendomi molto chiuso, il cane ogni tanto viene a rendersi conto se sono ancora vivo, e in quel periodo io chiaramente perdo un po' il senso della realtà. Ascoltavo la intervista, qualcuno di voi avrà sentito, El Roy, quando la Gruber, credo, gli ha chiesto, dice, che ne pensa lei della, dice, signora, io non ho nemmeno il telefono, cioè io non ho contatti con la realtà, io sono all'interno della storia che racconto. Allora, siccome credo che abbia tante cose da raccontarci, io voglio naturalmente e molto semplicemente ricordare che cercheremo di fare una breve narrazione attraverso naturalmente quelli che sono dei tanti libri che ha scritto, diciamo dei due cicli principali, i due ultimi volumi, perché poi bisogna stargli appresso, perché io so che poi ne uscirà presto un altro, ma di quello parleremo alla fine. In fondo al tuo cuore, per quanto riguarda il nostro commissario Ricciardi, e Gelo, per quanto riguarda invece il ciclo dei Bastardi di Pizzo Falcone, ciclo cominciato qualche anno dopo, ma che comunque sta dando tanti suoi frutti. Fritti, stavo dicendo. Lapsus. Ho fatto proprio tardi. E poi farei una brevissima, anzi fulminante istantanea, se ce la facciamo, incursione in quello che è l'altro suo libro uscito da poche settimane, che è Il resto della settimana per Rizzoli, invece gli altri due invece per Einaudi. Però io volevo chiedere, allora, noi abbiamo il nostro Luigi Alfredo Ricciardi, che voi tutti sapete essere il commissario della squadra mobile della questura della Regia Polizia di Napoli, e siamo nella Napoli degli anni 30, in pieno fascismo, quindi. Ricciardi è nato esattamente nel Novecento, quindi è un giovane piacente uomo dai languidi occhi verdi, cosa che, diciamo, ha un suo peso. Ha perso tutta la sua famiglia, altra cosa che ha molto segnato il nostro protagonista, ed è molto legato all'anziana Balia Rosa. Altri comprimari entrano e poi io devo farle una domanda, ma la faccio più avanti perché me l'hanno detto, chiesto almeno in 10, e a questo punto non posso esimermi, ma teniamolo per dopo. Perché gli anni 30, gli anni del fascismo, è una Napoli sostanzialmente, per i più, penso, inedita e rara e fuori da ogni luogo comune. Sì, io, come dicevi tu benissimo, ho cominciato a scrivere quando ero quasi fuori pericolo, insomma, ero già ampiamente all'interno della terza età e quindi ero tranquillo e mi avviavo a un futuro prossimo di piccoli problemi alla prostata e di un evidente peggioramento del carattere. Andavo, lavoravo in banca, forse lavorare è una parola grossa, diciamo che stavo in banca. Ci andavo con una certa continuità e percependo peraltro, sapevo che a queste latitudini l'argomento banca sarebbe stato, diciamo, di richiamo particolare, parlerò della cioccolata più avanti. Quindi, diciamo, io ero e sono sempre stato un lettore. Sono un lettore appassionato, sono uno che dalla vita potrebbe tranquillamente togliere la scrittura senza avere ripercussioni, ma la lettura no. E i miei colleghi mi vedevano sempre con questo libro in mano. Il libro in banca non è che sia proprio l'oggetto tipico, ecco, è una categoria meravigliosa, ma con, diciamo, più pragmatica, poco portata alla costruzione di fantasia. Quando il bancario ha fantasia è pericoloso. E quindi, diciamo, loro mi vedevano con questo libro in mano, per cui andando a prendere il caffè nella pausa in questo bar storico di Napoli che si chiama Caffè Gambrinus, che è al centro, adesso i napoletani infiltrati che ci sono sempre cominceranno a fare sì con la testa. Videro questa locandina di questo concorso per giallisti esordienti e pensarono bene di scrivermi per farmi uno scherzo. A me arrivò la mail di convocazione a questo concorso, io li guardavo, che mi guardavano per vedere come reagivo. Per non dargli soddisfazione sono andato a questa. Il Gambrinus è un locale Liberty, è molto, di Napoli, molto bello, fai così lo stesso. Posto straordinario dove si fa una sfogliatella assolutamente cardinale, direi, e mi ritrovai, siccome era l'ultima manche di questo concorso di cinque incontri in cui vennero tutti quelli che non avevano trovato posto nelle altre quattro città, io ero consapevole del fatto di essere lì solamente per far vedere ai miei amici che c'ero andato, ma non volevo scrivere niente. Questi però cominciarono a scrivere tutti quanti molto velocemente. C'era una coppia di torinesi, ricordo, marito e moglie, che si strinsero la mano guardandosi in cagnesco, poi si misero uno di fronte all'altro a scrivere, ogni tanto guardavano se l'altro stava scrivendo o no. Io credo che solo nella striscia di Gaza, nei periodi tosti, si arrivi alla conflittualità che può esserci fra due coniugi torinesi impegnati nello stesso concorso. Io li guardavo affascinato. Solo al premio Strega ho visto una maggiore ostilità di quella. E quindi io ero lì tranquillo quando a un certo punto Devo dire che lo sponsor del concorso, dettaglio non trascurabile, era la Ribolla Gialla, un vino friulano, molto buono, freddo. Arrivavano queste ragazze seminude e versavano questo vino, c'erano 50 gradi. Aiutava la scrittura. Noi bevevamo, sudavamo, loro arrivavano e versavano il vino. Questa è la creatività, insomma, era proprio ai massimi livelli. Io ero nei paraggi di questa vetrina, guardavo all'esterno, passa questa bambina con questa bamboletta in mano, si mette a guardare dentro, tipo acquario. Cioè le guardava me, io guardavo lei, dietro di me tutti scrivevano, i coniugi torinesi si spiavano. Sta bambina dopo un po' decide che il tempo a mia disposizione è scaduto, fa una boccaccia e se ne va. Io mi voltai temendo che qualcuno dietro di me avesse visto me, grande e grosso, e sta bambina che faceva la boccaccia. Dice questo, avrà insidiato la bambina. Invece nessuno aveva visto perché tutti scrivevano. E io un po' perché non volevo far vedere che me ne andavo immediatamente, come quelli che ai concorsi non sanno fare il compito. Nemmeno mi andava di non consegnare, quindi scrissi, grazie anche alla Ribolla Gialla, questo racconto su questa persona seduta al posto dove ero seduto io, che vedeva qualcosa che gli altri non vedevano. Immaginai, essendo un concorso per giallisti, che questa ragazza fosse morta, questa bambina, punendola anche per la boccaccia, insomma, in questa maniera. Scrissi questo racconto ambientandolo nell'epoca che mi sembrava adatta al bar, quindi agli anni 30. Perfetto. Arrivai a casa e mi arrivò dopo qualche ora la mail, dopo un giorno la mail che mi avvertiva che io avevo vinto la mancia del concorso e che quindi dovevo andare a fare la finale a Firenze. Io, che sono uno che crede nei propri mezzi, chiamai subito e dissi: guardate, mi avete mandato la mail di quello che ha vinto il concorso. E loro dissero: scusi, ma lei è quello che ha scritto di quel commissario che vede morti? Io dissi sì. Disse: e lei ha vinto la mancia. Io risposi anche in maniera poco urbana, perché dissi: mamma mia, allora gli altri dovevano proprio fare schifo. Ma perché uno non si aspetta che la prima volta che scrivi una cosa vinci un concorso. E quindi da lì in poi nacque questo personaggio che chiamai Ricciardi, perché non conoscevo nessuno con quel nome e quindi temevo, nessuno mi poteva accusare di aver. Poi ho conosciuto tutti i Ricciardi del mondo che mi scrivono, alcuni vedono anche i morti peraltro, e non soltanto quando vedono giocare alla nazionale. E queste persone che successivamente andai a Firenze a fare questa finale di questo concorso. Il premio consisteva nella pubblicazione di questo racconto sull'Europeo, giornale che all'epoca si stampava ancora. E io ero intenzionato a scrivere altre cose. Il presidente della giuria, il direttore dell'Europeo, venne da me subito, c'erano tutti quelli che avevano vinto nelle varie città, e disse: scusi, lei è quello che a Napoli ha scritto di quel commissario che vedeva i morti? Noi napoletani ci sentiamo sempre un po' accusati di aver imbrogliato. E io dissi: sì, ma l'ho scritto io. E lui disse: me ne fa un altro, per favore. Lui adesso dice che perché gli piaceva il personaggio. Sono convinto che voleva vedere se l'avevo fatto io. E io presi Ricciardi e scrissi il secondo racconto che vinse il concorso. Poi non si è più fermato. E veniamo però al carattere del nostro Ricciardi, che è notoriamente, col forte senso di giustizia, e fin lì mi sembra abbastanza giusto e prevedibile, ecco, che non si sottomette agli interessi di carriera di alcun tipo, che non ha timori irreverenziali. E l'altro aspetto, che assieme alla componente a cui hai accennato e di cui adesso voglio tornare a parlare, ha molte fragilità e ritrosie intime, personali, direi, no? È invaso da quella malinconia e da quella paura delle passioni che sostanzialmente fa di lui un personaggio speciale, insieme all'altra componente, cioè quella che nei suoi libri viene chiamato il fatto, cioè questa facoltà che per lui è insieme una dote e una condanna, di sentire le ultime parole delle vittime, dei morti, e di vedere i fantasmi. Sì, in effetti Ricciardi ha una percezione del dolore. Ricciardi in realtà non vede i morti, io intervengo sempre su questa cosa. Ricciardi vede i vivi mentre muoiono di morte violenta. Li percepisce come un odore, come una sorta di sensazione, come un tanfo, come una... Li vede perché decodifica il dolore che sente. È una follia. Lui è convinto di essere pazzo. E quindi essere pazzo in maniera ereditaria. Motivo per cui pensa di se stesso di non essere in grado di unirsi a una compagna, di avere dei figli, di avere una vita normale. Chiaramente non può avere amici, perché tu non puoi avere una cosa così grossa e avere un rapporto profondo di condivisione con qualcuno senza dirla. Quindi lui è costretto a tenersela per sé, e questo lo rende più solitario di quanto il suo carattere chiuso, introverso, gli consentirebbe. Però lui ha un rapporto o due rapporti privilegiati con cui lui magari in modo criptico si svela parzialmente, o che sono in grado comunque di interloquire con questa parte di non detto sua, no? E sono notoriamente, io ve lo dico, ma che lo dico a fa, come diceva quello, da un lato il brigadiere Raffaele Maione e dall'altro il dottor Bruno Modo. Tra i tanti comprimari, se li posso chiamare così, voi conoscete per esempio Olivia, che è la vedova di un cantante lirico che era rimasto ucciso e Ricciardi aveva risolto il caso, che si è innamorata di lui. Avete la Baglia Rosa tanto amata di cui si è parlato prima, e avete la giovane Enrica che lo ama ma non trova conferme di sorte nel restio Ricciardi. C'è il femminiello Bambinella e tanti altri. Ci sono anche gli orafi, l'artigiano, le prostitute, insomma c'è tutto un mondo che va a costruire quella che qualcuno ha chiamato una poderosa commedia umana per esplorare l'animo umano. Allora io mi sono chiesta e mi sono detta, se non è che in fondo l'indagine è anche sostanzialmente un alibi per raccontare la fame reale e la fame, posso dire banalmente, la fame d'amore, comunque una fame affettiva, che è sostanzialmente il problema di Ricciardi. Io a saperlo avrei studiato di più, ve lo dico sinceramente. Credevo di essere abbastanza preparato, ma... Sì, così è quando mi prendi in giro. No, perché... Non mi complimento per la preparazione. No, a volte a me succedono cose strane con i personaggi, perché quando tu porti un personaggio avanti e lo racconti col mondo intero, soprattutto in una città come la mia, cose strane te ne succedono. Io raccontavo che sono stato, prendevo un caffè a via Monte di Dio, in un bar piccolo, c'erano due signore, una un po' più grande e una più giovane, che mi guardavano disgustate, cioè proprio dalla testa ai piedi. Io pensavo mi avessero scambiato per qualcun altro, poi temevo di aver calpestato qualcosa oppure di avere la patta aperta, cioè qualcosa che inducesse questi sguardi disgustati. A un certo punto la più grande di queste due signore fa all'altra, dice: no, io glielo devo dire. E l'altra dice: no, ma lascia stare, stiamo in un bar. No, glielo devo dire. Parte dal tavolino col dito così, mi arriva vicino e fa: senta, ero io col caffè, il barista dietro di me, io glielo devo dire, ma quella povera Enrica. Eccola la domanda. Ma che modo di trattare una ragazza giovane e gentile, si ricordi che si paga? Queste sono cose che se voi uomini non lo sapete. Mi ha fatto un cazziatone di circa due minuti. Io balbettavo delle scuse, perché tu ti vedi affrontando: signora, ma non si preoccupi, io cercherò di mettere a posto. No, lei lo deve sapere, che noi stiamo attenti a queste cose. Il barista, che non aveva idea di chi fosse, mi guardava come a dire: questo fai soffrire, uno stupratore. Quando ha finito di parlare, la signora non è che ha detto: comunque grazie per i suoi libri, sono una lettrice, mi chiamo tal dettaglio, posso fare una foto? Fa: ah, gliel'ho detto. Si gira e se ne va. Il barista ha fatto un euro. Ha detto: no, ma sai, io scrivo romanzi. Sì, vabbè, un euro, come a dire. Dicono tutti così. Quindi, diciamo, io vado incontro a questi problemi e mi capita spesso in edicola. Non più tardi di una settimana fa, io dovevo comprare dei giornali, c'erano due signori che parlavano fra di loro. A un certo punto uno si gira e fa, in napoletano lo dico, poi dopo lo traduco per i dice: è lì Jim K invece scrivere, cioè leggiamo invece di scrivere. E io dissi: ma è un giornale, ci metto poco. Ma noi stiamo aspettando, cioè. Tutto senza presentare. Cioè, io gradirei essere trattato a volte con un po' di soggezione, sa? Quella che si... Cioè, caro figlio, lo vedi da lontano, fai caro figlio, fai così con la... Cioè, io prendo soltanto cazziatori, cioè... Troppa spero confidenza. Di non essere picchiato. Allora, il mondo di Ricciardi in effetti si sviluppa a prescindere da me. Io, soprattutto nel caso di Ricciardi, ho difficoltà, e Francesca, che la mia amica Francesca Battistella, straordinaria scrittrice che saluto, Francesca lo sa, io prevedo poco di quello che succede. Io lascio i personaggi liberi, conosco la storia. La storia gialla deve essere costruita, perché il rapporto fra lo scrittore di questo tipo di libri e il lettore è un rapporto perfido. Il lettore è uno che non vuole far, che sta attento a non farsi fregare, ma se non lo freghi rimane malissimo. Quindi è disperato nella ricerca dei segnali, però vuole arrivare all'ultima pagina e vuole dire: ah, mi hai fregato. Cioè, è un rapporto perverso, per cui la storia gialla va costruita e va costruita con attenzione. Invece i personaggi vanno lasciati liberi di vivere all'interno della storia. Quindi io realmente non so. Cioè, ogni volta che le persone mi prendono, mi mettono al muro col dito puntato, perché chissà perché con me si parla sempre col dito puntato, e mi dicono: ma Enrica, se la sposa o non se la sposa, Ricciardi? Io non lo so, veramente non lo so. Allora ci provo anch'io. Ecco. Perché? Perché nei tuoi libri i libri sono scanditi da periodi e festività con tutti i suoi rituali? Faccio solo due esempi: la Pasqua per la vipera, piuttosto che per quest'ultimo la festa del Carmine. La festa del Carmine. Dunque, io ho scritto i primi quattro romanzi ammettandoli nelle stagioni. Sono convinto che un libro sia un biglietto per un viaggio. Cioè, un libro serve ad andare da qualche altra parte, altrimenti è inutile. Contrariamente ai film, ai telefilm, che consentono la distrazione. Cioè, io posso rispondere al telefono mentre guardo un film e poi tornare a vedere il film. Se leggo un libro, io non mi posso distrarre. Cioè, io posso vedere un film con gli amici, posso andare al cinema con gli amici, non posso leggere un libro con gli amici. Il libro implica una profonda tensione dell'immaginazione. Leggere è un'attività. Guardare la televisione è una passività. Cioè, quando io guardo la televisione vedo qualcosa che ha pensato qualcun altro. Quindi non mi posso immaginare una faccia o una musica o un odore o un sapore diversi da quello che vedo. Non posso chiedermi se sia giorno, se sia notte o sia pomeriggio, perché lo vedo. In un libro invece no. In un libro io devo lavorare, devo costruire, devo sono il regista, il direttore della fotografia, lo sceneggiatore, il direttore del casting e lo spettatore unico. Quindi nel libro io devo avere una profonda presenza. Il libro quindi deve essere un'esperienza sensoriale. Il libro bello è quello che vi porta via. Quello che leggete per un'ora e vi rendete conto che state leggendo per un'ora e non vi capacitate perché vi sembrano 5 minuti e interrompete perché qualcuno bussa alla porta del bagno, perché si legge in bagno. Quindi deve essere un'esperienza sensoriale. Essere un'esperienza sensoriale implica un'attenzione estrema a quella cosa che noi guardiamo a inizio giornata per sapere come ci dobbiamo vestire, per sapere che mezzo di locomozione dobbiamo usare, cioè il tempo. Il tempo, il clima. E poi i sapori, e poi gli odori, e poi gli effetti di tutto questo sullo spirito, su come vogliamo stare, su perché. Quindi io ho usato le stagioni per i primi quattro romanzi. Poi, finiti i primi quattro romanzi, io volevo continuare a scandire il tempo. Io ho scelto per Ricciardi una via diversa da quella che per esempio ha scelto Simenon, no? Maigret è uguale a se stesso in tutti quanti i libri. Il tempo per Maigret non passa. Così anche per molti versi è Montalbano di Camilleri. Così era Pepe Carvaglio. Cioè non c'è un'evoluzione effettiva, temporale, cronologica. Seriali in senso stretto. Io invece ho fatto una scelta diversa, che è quella di far evolvere le storie dei personaggi. Quindi il tempo cambia. Il tempo cambia e cambia nella seconda serie con le feste. Esatto. Le feste in realtà sono un altro modo di raccontare le stagioni. La Pasqua per la primavera. Anche di raccontare gli odori, le temperature. Il Natale ovviamente per l'inverno, per mano mia, Vipera per Pasqua, in primavera. La Madonna del Carmine è in piena estate. Avrei dovuto scrivere un libro per l'autunno e avevo in mente di parlare della festa di San Gennaro. La festa di San Gennaro, che è il 19 di settembre, è una festa del sangue. Quindi è una festa adatta a scrivere un romanzo. Ma scrivendo In fondo al tuo cuore, io mi sono accorto che In fondo al tuo cuore era un romanzo conclusivo di un ciclo. Cioè In fondo al tuo cuore, per le cose che succedono e per come succedono, è un romanzo che conclude quella parte narrativa. Per cui il romanzo quarto non ci sarà di quel ciclo lì. Ho dovuto inventarmi un'altra cosa. Adesso ci arriviamo, però posso dedicare qualche minuto a quell'altro ciclo, I bastardi di Pizzo Falcone, che si è aperto nel 2013. No? E qui abbiamo una Napoli contemporanea, una Napoli, posso dire, più complicata per molti versi, che è un magma di complessità e di contraddizioni che sono peraltro quelle del presente, ben inteso. La domanda è, là abbiamo un eroe solitario e malinconico, diciamo così, no? E qui abbiamo il siciliano Lo Iacono, ma soprattutto abbiamo il commissariato intero, sotto pressione peraltro, perché lo vogliono smantellare. Là una solitudine, potremmo dire, esistenziale per qualche verso, e qui invece una profonda e malata solitudine sociale. Sì, I bastardi di Pizzo Falcone sono una... Diciamo che mentre Ricciardi, come vi raccontavo prima, mi è capitato, cioè ha deciso di scriversi e io lo accompagno, lo sostengo, lo accompagno, sto a guardare, ma io veramente nel caso di Ricciardi sono il primo lettore. Con I bastardi è successa una cosa diversa. Io nel 2012 sono andato a una presentazione, era una presentazione a Napoli, una presentazione di due scrittori che facevano un piccolo ciclo di presentazioni. E in questa presentazione, fatta sotto forma di interrogatorio, quindi una cosa abbastanza particolare, loro mi hanno chiesto se non era troppo comodo andare soltanto negli anni 30, se non era facile, non era una fuga scrivere di un periodo così passato, così affascinante e quindi così di per sé autosufficiente. Questa cosa mi fece pensare e mi chiesi come sarebbe andata se avessi scelto di scrivere una storia contemporanea. Cioè, dimmi. No, ed è tanto più vero, secondo me, perché il commissario Ricciardi non manca di piacere, ma proprio di intrigare. C'è un meccanismo di identificazione e anche di attrazione, possiamo dirlo, da parte femminile. Ha tutti i connotati giusti. E di là, invece, il commissario è molto più ruvido il tutto. Guarda, no? Il commissariato, voglio dire. Mi onoro di non aver mai capito le donne nemmeno da vicino. Ma vabbè, Io adotto un metodo empirico, che poi semmai ti dico, per descrivere i personaggi femminili. Però un metodo pratico, io sono convinto che le donne vivano nel futuro, siano perennemente proiettate. È gentile il modo per dire nevrotico. No, anche nevrotico. Però vivono nel futuro, quindi vivendo nel futuro, vivendo costantemente proiettate alla costruzione di un futuro, alla preparazione di un futuro, alla strutturazione di un futuro, ricordano il passato per filo e per segno, ce lo rinfacciano costantemente. Gli uomini invece vivono nel presente, i maschi. Hanno un'ottica di periodo che non va oltre il pesce rosso, il 27, il fine settimana. E quindi, diciamo, noi sostanzialmente vogliamo una birra e vogliamo vedere la partita, possibilmente. E quindi, avendo un'ottica di periodo ristretta, le donne e gli uomini si incontrano soltanto quando il presente diventa futuro, cioè in una brevissima fascia. Quindi se tu descrivi le donne sapendo che loro pensano a quello che gli potrà succedere e come potranno organizzarsi, le descrivi bene. Quindi senza capirle e senza avere la minima idea di come funziona il cervello femminile, mistero nel quale io non oso entrare, anche perché la fisica quantistica è problematica, motivo per cui io descrivo le donne così e normalmente devo dire ricevo molti complimenti per i personaggi femminili, quindi in qualche modo deve funzionare questa cosa qui. Però torniamo ai nostri di ai bastardi. Sapete che negli esami quando uno divaga e poi ti porta, no, allora aggiungo una cosa così la facciamo fuori. No, è proprio... ma la so. Allora, io volevo scrivere una storia contemporanea e feci appello ai miei scrittori preferiti. Io ho uno scrittore preferito, di cui sono innamorato pazzo, che purtroppo non c'è più, che è Ed McBain, uno degli pseudonimi con cui scriveva uno straordinario scrittore di gialli americano, il cui vero nome era Salvatore Albert Lombino, il che vi fa capire da dove venisse. Lui, che firmò come Evan Hunter anche la sceneggiatura di Uccelli di Hitchcock, quindi stiamo parlando di un genio assoluto, scrisse questi 55 romanzi basati su questa squadra di polizia che si chiama 87esimo distretto, di una città immaginaria che lui chiamava Isola in italiano e che era Manhattan ruotata di 90 gradi. Quindi la piantina di Manhattan girata di 90 gradi in maniera tale che ogni posto diventasse diverso da se stesso, mantenendo delle caratteristiche, perché quello che dava sul mare all'improvviso dava all'interno e così via, e parlava di questa squadra. Io ero innamorato pazzo di questa squadra di poliziotti. Quando si è trattato di scrivere una storia contemporanea, io ho pensato che potevo, io ho la grande fortuna, l'immensa fortuna narrativa di essere napoletano. Napoli è una città diversa da tutte le altre, perché ha la periferia in centro. Cioè, voi se da Milano partite da Piazza del Duomo e cercate un posto degradato, dovete fare un'ora e mezza di macchina. Questo implica competenze di commissariati diversi. Mettere un commissariato nel centro della città, a Napoli, significa poter avere in 400 metri lineari quattro realtà sociali clamorosamente diverse fra di loro. Cioè non semplicemente diverse, opposte. I quartieri spagnoli con la suburra della prostituzione, delle fabbriche del falso, dello spaccio di droga e anche della grande infiltrazione camorristica. Chiaia, via Chiaia, con la borghesia commerciale e impiegatizia rovinata dalla crisi. Piazza dei Martiri, con la borghesia finanziaria arricchitasi con la crisi. E il lungomare, via Caracciolo, con l'aristocrazia impegnata in un eterno burraco che vive in salotti che non hanno finestre, assolutamente inconsapevole del resto della città. Queste quattro città coesistenti in 400 metri mi consentono di raccontare Bastardi di Pizzo Falcone, cioè una realtà complessa, come dicevi giustamente tu, una realtà talmente articolata e talmente complessa che sarebbe impossibile raccontare da un'altra parte. Questi contrasti, queste unioni, queste frizioni, le scintille di queste ruote dentate asincrone che girano male l'una nell'altra e non possono fare a meno di scontrarsi, costituiscono le storie che io metto all'interno dei Bastardi di Pizzo Falcone. Ecco, e poi oltre alla scrittura abbiamo già parlato... La sapevo. No, devi ammettere che la sapevo. La sapevi. Che tempi teatrali e non a caso, eh? Sono napoletano. È di serie. Cioè, è previsto? Sì. Perfetto. Dicevamo, in Gelo, l'ultimo della serie dei Bastardi di Pizzo Falcone, c'è un Gelo che è interiore, oltre che reale, peraltro, e che per Napoli forse non è esattamente scontato. Però posso dire che, così, proprio stringendo il tutto, Gelo è un noir sul rapporto con la figura del padre, declinata nei mille modi? Sì, sì. C'è un'emozione, c'è un sentimento che uno sceglie all'inizio di un libro. È come scegliere una tinta con cui si vuole dipingere in diverse gradazioni un appartamento. Però, diciamo, non possono fare pugni fra di loro, no. Deve essere in qualche modo, ci deve essere un'affinità. Il leitmotiv, il mood, diciamo, di Gelo è sicuramente la figura del padre. La paternità com'è vissuta adesso, cioè una paternità filiale, cioè una paternità strana, alterata, complessa e a volte inconsapevole. Fare il padre o lo fa istintivamente e come viene secondo il tuo carattere, o cerchi di farlo bene, allora è quasi impossibile come mestiere. In Gelo ci sono tutti questi tentati padri, cioè questi padri che cercano di rincorrere una figura di paternità, questo amore enorme nei confronti dei figli, ma un amore difficile da vivere, perché i figli si aspettano sempre qualcosa che noi non siamo in grado di dare. Noi siamo una generazione strana, bastarda, perché veniamo da una generazione di padri che non giocavano con noi, che non parlavano di sesso, che non avevano minimamente, che lavoravano per darci il benessere maggiore possibile, ma che avevano rapporti praticamente rari, se non in determinati rituali. Sì? E noi che siamo invece il contrario, esagerando nel contrario, per cui diventiamo una sorta di strano maldestro compagno di giochi che quando poi mette limiti, tu ti senti mettere limiti da un compagno di giochi e dici ma chi sei, insomma. Quindi queste complesse articolazioni di questo sentimento, di questa emozione che è la paternità, possono anche creare in certe maniere perverse delle situazioni criminali. E certo. E poi comunque... Grazie. No, ma grazie soprattutto per il fatto, per aver apprezzato che certe paternità diventano criminali. Io di questo vi ringrazio molto perché... No, io subisco violenze domestiche, vorrei fare questa denuncia qui costantemente e quindi vorrei approfittare... No, le subisco le violenze domestiche, quindi volevo anche chiedere aiuto in questo senso. Lo dico a voi che non vedete. Chiedo aiuto. No, e poi c'è un'altra cosa, che questa è anche una mia curiosità, cioè... Sia Ricciardi che Lo Iacono, tutto sommato, e tutto il commissariato di De Bastardi e Pizzo Falcone, sono fuori da ogni ortodossia. E questo è un aspetto che mi piace molto. No? In fondo sono, oltre che inquieti, difettosi in un qualche modo. Sì, sono difettosi. Hanno due difetti a testa. Uno espresso, esplicito. Espresso, esplicito, che li ha bloccati nel processo di carriera, che li ha fatti mettere da parte. Tutti quelli che lavorano in una struttura sanno come a volte ci sia un momento, possa esserci un momento in cui ti trovano un difetto, ti trovano qualcosa che hai fatto che non va, che serve per giustificare anche a te stesso di esserti fermato e di essere andato in uno di quei colon della vita e della carriera che ti mettono un po' da parte. E poi hanno, quello che è peggio, un difetto interno. C'è una cosa, una caratteristica che loro percepiscono come difetto, esatto, e che li fa sentire colpevoli, fa nei confronti da del meno. Peggior giudice, certo, che cioè sono loro stessi. Li fa sentire da meno e difettosi. Questi però, se da un lato... Cioè, e questo crea un grande pathos per il lettore, secondo me, perché comunque crea quel meccanismo di identificazione che non è detto che tu con un commissario o con un poliziotto possa... Avere. Sì, sì, è vero questo. Io non... paradossalmente Ricciardi, che passa per più originale, perché vede i morti, perché gli anni 30, eccetera, eccetera... È molto bella questa cosa. È un meccanismo morti, narrativo più normale, più usuale, perché è l'eroe solitario. Esatto. È Batman. Sì. È un uomo sofferente, separato, in crisi con se stesso, in perenne... ansia da insufficienza. I Bastardi no, i Bastardi sono articolati, sono in lotta fra di loro e col mondo, perché sono rotti. In un mondo che pretende la perfezione senza di fatto mai averla, essere coscienti di essere imperfetti è una sfiga. Sì, è il crisma della sofferenza, perché certo, finché tu sono gli altri che ti vedono imperfetto e tu no, vai bene. Il problema è quando tu sai di essere imperfetto. Certo. Sì. Però Maurizio De Giovanni, c'è un'altra dimensione di Maurizio De Giovanni che io non voglio e non posso trascurare, pur brevemente. Sì, ma sto cercando di dimagrire. Ma... No, ci provo. Allora, no. È un sacrificio. È un'altra dimensione. Cioè, però si dimensiona. Non è serata giusta per dimagrire. Le dimensioni non contano. No, dico, non è serata si giusta per sempre cominciare a dimagrire. Si rimanda. No, dicevo che è in libreria da poco Il resto della settimana, che non è un giallo, quindi non ci dilungheremo su questo. Però racconta quell'altra dimensione che è l'amore per il Napoli, inteso come squadra di calcio. E soprattutto... Qua parliamo di cose serie, quindi vorrei un minimo di pathos in più. Io... Che fin qua abbiamo parlato morti, feriti, però qua... Io distanza tengo. Però, allora, sappiamo che tanti scrittori hanno parlato, e scritto soprattutto di calcio, è scritto della poetica del calcio, di come... Il calcio è paradigma del mondo, si sprecano o perlomeno si sono consumate pagine e pagine su questo. Però lei rivendica, lo cito, di stare malato. Io non so tifoso, so malato. Sì. Questa è l'espressione corretta. D'altra parte non si chiamerebbe tifo se non fosse una malattia. Esatto. Le parole hanno un peso. Hanno un peso. In questo libro, che non per niente si chiama Il resto della settimana, ovvero la distanza tra una partita e l'altra sostanzialmente. Sì, avrei potuto chiamarlo L'inutile resto della settimana. Sì. Esatto, quell'intervallo noioso e troppo lungo. Sì. Esatto, in cui un professore in pensione cerca sostanzialmente di catturare quest'epica quotidiana del calcio rubando le storie agli avventori di un bar e la poetica del mondo attraverso un bar, attraverso il calcio. Allora, mi è venuto in mente il famigerato di cui sopra, Bar Gambrinus. Sì. Che in fondo è un altro bar, è un'altra dimensione, però ti viene da dire, il bar spiega e rivela l'umanità alla fine. Ma... perché in fondo là dove Ricciardi si racconta è al dottor Bruno Modo, al Bar Gambrinus, anche lui. Sì, sì. Allora, intendiamoci bene sul bar. Innanzitutto, c'è bar il calcio... bar. Io credo che la vita sia una buona metafora del gioco del calcio, cioè non viceversa, ma la vita è una metafora del gioco del calcio. Si nasce attaccanti, si nasce difensori, si gioca sulla fascia, si cigischia a centrocampo, cioè, si fanno un sacco di cose nella vita che secondo me banchina. Possono portare si sta in banchina, ci si fa male, ci si infortuna. Il bar, allora noi a Napoli, a proposito di parole, noi diciamo... prendere il caffè, non bere il caffè, c'è differenza. Prendere un caffè significa prendersi una pausa, significa fare qualcosa per se stessi. Quando uno prende un caffè, blocca lo scorrere del tempo, per un tempo limitato, per una cosa che non è nutriente, non è particolarmente eccitante, perché un caffè, insomma, voglio dire... non è niente altro che un momento di pausa per se stessi. Quando uno si prende una pausa, pensa o non pensa? Cioè lo fa per un attimo meditare, per prendere un momento in cui ci si trova di fronte con se stessi, di fronte a se stessi. Questo quindi significa che il bar è un luogo deputato alla meditazione. Cioè io mi chiedo come facciano in Tibet senza adeguatamente fornire... Sì, secondo me è tutta una finta, perché il bar è un luogo necessario alla meditazione. Ora a Napoli il bar diventa, non c'è un bar sport, tutti i bar sono bar sport, c'è una conversazione relativa al calcio che comincia la mattina quando si apre. Questa conversazione non finisce mai più. Però evolve. Si evolve costantemente, chiunque entri è titolato a intervenire nella conversazione, dire la sua, litigare anche, oppure avallare l'atteggiamento di uno dell'altro e andar via. Serenamente essendo sostituito da qualcun altro. Io mi sono rifatto nella costruzione del resto della settimana un piccolo bar gestito da tre fratelli. Non è il bar di Peppe, che è gestito da una persona sola. Questo bar piccolo gestito da tre fratelli nella zona centrale ha due fratelli normali e un fratello juventino. Ora io non so dirvi per quale via genetica In una famiglia sana, improntata a principi educativi anche di sufficiente rigore, uno dei tre figli possa diventare juventino. Questo ragazzo, che peraltro è normale, cioè una persona che tu la vedi, dici vuole essere normale, invece no, juventino. Questo ragazzo non è che dica di essere juventino, oppure tutti lo sanno. Lui sa che tutti lo sanno e lui si limita a sorridere subendo degli attacchi verbali di una violenza inaudita, ma è la sua funzione nel mondo. Cioè lui sa di essere deputato a essere l'unico che gode in mezzo a tutti quelli che soffrono, e il che lo rende un paria al contrario. E io ho grande tenerezza nei confronti dei tifosi della Juventus, perché poverini non hanno modo di crearsi un epos. Cioè loro, vincendo costantemente, non è che sanno dove erano quando hanno vinto il terz'ultimo scudetto, si devono fare i calcoli, non se lo ricordano. Io posso dirvi che cosa ha fatto ogni singolo minuto del 10 maggio del 1987. Questo mi rende proprietario di un'epica che gli altri non hanno. I tifosi poi del Napoli, che io racconto in questo libro, e mi sono divertito da morire, perché ho chiesto su un sereno e pagato gruppo di Facebook che si chiama Malati Azzurri, ho chiesto a questo gruppo di facinorosi esagitati, tra cui professori universitari, eccetera, eccetera, tutta gente che in un normale paese non sarebbe più di libero. a questi qui ho chiesto di dirmi quali scaramanzie particolari fanno in ordine alla partita. Io credevo di essere pazzo perché ho un amico che viene a vedere la partita da me e, ancorché con tutti i posti a disposizione, va a sedersi sotto il tavolo, perché si trovò seduto sotto il tavolo quando il Napoli segnò un famoso gol, vabbè, non vi sto raccontando. E quindi lui arriva, saluta tutti, dice buonasera e si va a sedere sotto al tavolo, che è qualcosa di surreale. Ma ho scoperto, mettendo questa richiesta su questo gruppo, raccontatemi che cosa fate in ordine alla partita, ho scoperto di essere uno freddo e sereno, perché c'è uno più sobrio ed equilibrato, c'è uno che chiude la mamma fuori al balcone. Guardate che, guardate che voi ridete, ma ci sono. Allora, la madre durante una partita di fine stagione, quindi maggio inoltrato, stendeva i panni nel momento in cui Cavani in 5 minuti fece 2 gol. Da quel momento in poi, e per non più di 5 minuti, questa signora ultra ottantenne è costretta dal figlio, non costretta, lei lo sa già, prima della partita lei prepara il cappotto, la sciarpa, e quando si arriva nei momenti del forcing, quando il Napoli comincia ad attaccare perché deve recuperare o deve vincere, il figlio dice mamma già te pazienza, e la mamma si mette, questo papà saluta tutti affettuosamente e se ne va fuori al balcone ad aspettare che il figlio gli dica di rientrare. Questo è un dato di fatto, l'ho visto, questo è un dato di fatto. Un altro, c'è un'aneddotica sterminata su questo argomento, c'è un altro che ha lavorato proprio in Svizzera per molto tempo e quindi aveva l'uso tra il primo e il secondo tempo di telefonare al padre per sapere la partita come stava andando. Il padre gli risponde, pur standola vedendo tutte e due, il padre gli rispondeva con una frase tipica, dice beh non ti preoccupare vinciamo sicuro, no papà non lo dite vi chiamo dopo, boom, e metteva giù il telefono. Il ragazzo è stato ritrasferito in città ed è andato ad abitare nella casa col padre. Tra il primo e il secondo tempo lui lascia il divano, prende il cappotto, va per strada e telefona al padre. Il padre sul suo divano, dove era lui fino a pochi secondi prima, deve rispondere un'altra volta. Cioè sono cose che non è che possono passare così, qualcuno le deve raccontare. Non credete voi? Cioè, e ce ne sono... No, io mi sono limitato alla colazione. C'è uno che deve passare mentre i semafori con lo scooter, tornando dal lavoro il venerdì, deve passare mentre tutti i semafori diventano da giallo a rosso. Che significa? Se non succede questo il Napoli non vince. Allora lui che cosa fa? In tutta questa sequenza di semafori, pensate a Napoli, no? Cioè quindi il venerdì sera, come dire, la gente ha voglia di tornare a casa velocemente. Quindi diciamo il giallo diventa un'indicazione vaga. Quindi tu c'hai davanti uno con un motorino che rallenta mentre è verde perché deve diventare giallo e lui passa col giallo e tu sei costretto a fermarti col rosso. Cioè sono cose per cui si rischia la pelle. Sono eroi. Sulla biancheria intima non voglio tediarvi, ma vi posso garantire che ci sono elementi divertenti anche lì. Vogliamo chiudere per salutarci dicendo qualche cosa sul prossimo Ricciardi? Sapevo? Non vedo dita alzate. Dunque, Ricciardi, questo libro inizia un ciclo nuovo di 3 romanzi. Io avevo bisogno di capire che cadenza dare e ho pensato alle canzoni. Quindi ognuno di questi romanzi avrà una canzone che costituirà, diciamo, non la colonna sonora, ma l'atmosfera del libro. Non tanto la canzone, quanto il sentimento che rappresenta. Le canzoni napoletane non sono come funziona la musica normale. La canzone napoletana racconta una storia. Ogni singola canzone racconta una storia. Questa storia che racconta ogni singola canzone è basata su un evento. La canzone che ho scelto per questo libro, che si chiama Anime di vetro, è Palombe Notte. Palombe Notte è una canzone scritta da Salvatore Di Giacomo nel 1906. Salvatore Di Giacomo era un poeta di grandissimo valore, fortunato perché riconosciuto in vita e non dopo, per cui era famosissimo. Aveva 45 anni nel 1906 e dirigeva una sezione della Biblioteca Nazionale. Era celebratissimo. Una ragazza di 26 anni, che si chiamava Elisa, che aveva, cosa che per l'epoca era rarissima, aveva molta voglia di autonomia culturale, economica, decise di laurearsi, scegliendo di fare la tesi proprio su Salvatore Di Giacomo. Andò presso la biblioteca, cominciò a frequentare la biblioteca per vedere quest'uomo. Salvatore Di Giacomo viveva con la madre, che era una donna di un carattere difficilissimo, lui era figlio unico, non si era mai sposato perché la personalità di questa madre era enorme, lui era dolcissimo invece. E questa ragazza, di nome Elisa, si innamorò di Salvatore Di Giacomo, 20 anni più di differenza, e decise di scrivergli una lettera. E gli scrisse questa bellissima lettera, che esiste ancora, in cui lei diceva: se non l'avete capito, io vi amo. Che detto da una donna a un uomo era un atto di sfacciataggine enorme per Napoli in quel momento. Salvatore Di Giacomo non voleva rispondere, non poteva rispondere, perché se avesse risposto avrebbe dato rilevanza a questa lettera, ma nemmeno poteva tacere perché lui era innamorato di questa ragazza. Allora scrisse questa poesia. La Palombe Notte è una falena, una farfallina notturna che si avvicina a questa candela dove il poeta avvicina mentre sta scrivendo, e il poeta cerca di cacciarla per evitare che si bruci con la fiamma della candela. La candela è lui, e questa falena può bruciarsi e bruciare anche lui nella mano che cerca di cacciarla. Come non vedere Ricciardi. Quindi il sacrificio di respingere una persona che si ama, perché se si ama qualcuno si vuole il suo bene, e se si è il male per qualcuno che si ama si deve avere il coraggio di allontanarsi, cosa che nessuno fa mai, è il mood e lo spirito centrale di questa storia, che si chiama Anime di Vetro, e che devo dirvi io sto scrivendo con molta partecipazione emotiva, cioè mi sta veramente molto facendo, mi sta portando via molto. E ho fatto la barba per venire qui, mi sono lavato, lo dico per chi dovesse trovarsi sotto vento nel corso della serata, e però devo dire che è stato abbastanza amputativo dover mollare Ricciardi per venire qui, però sono felice di essere qua lo stesso. Grazie. Grazie. Posso leggere un po'? Fabrizio, legge. Adesso ci fa, posso dire, l'onore di leggerci un minuscolo pezzettino per salutarci, che è, come dire, un inedito, perché se lo sta scrivendo nessun altro l'ha mai sentito, inedito, tranne che... Io volevo lasciarvi una scelta, per la verità. Io uso sempre leggere qualcosa quando vado per la prima volta in un posto. Non chiudo la mamma fuori al balcone, però anche io ho le mie cose. Quindi, diciamo, io potrei leggervi un pezzo del nuovo Ricciardi, che però è un pezzo di un libro, però potrei anche leggervi un pezzetto di un racconto, se vi va, che è una cosa conclusiva, invece più concluso e più ha un senso compiuto, ecco. Quindi magari potrei leggervi questo. Dai, volentieri. Come vi va? Dai, sì, faccio questo. No, io per me c'ho il treno domani mattina alle 10. Allora vi leggo un pezzettino di un racconto, dovete avere pazienza e seguire un po' con l'accento napoletano. Quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, una piccola casa editrice è rimasta distrutta e ha chiesto a tutti quanti gli autori che avevano subito un terremoto nella loro vita di scrivere un racconto che esorcizzasse un po' la paura del terremoto. Con il ricavato di questa antologia fu ricostruita la casa editrice, e mi piace questo fatto che i racconti contribuiscano a ricostruire. E poi l'antologia non è stata più ristampata. Io ho scritto un racconto in 4 parti, vi leggo l'ultima parte, che è l'unica che ho inventato io. Le altre 3 sono stati fatti che mi hanno raccontato cioè a Napoli sono successe cose anche un po' strane durante il terremoto. Io ricorderete che il terremoto dell'80, del 23 novembre dell'80, successe la domenica alle 19.30. Era in corso una partita in televisione, perché facevano il secondo tempo, e questo mio amico, che mi racconta un altro pezzetto di questo racconto che non vi leggerò, stava proprietario di un bar, stava lavando i bicchieri mentre quattro vecchietti guardavano la partita. Esattamente nel momento in cui ci fu la scossa di terremoto, un giocatore colpì la traversa con un tiro fuori area enorme e cominciò a tremare tutto. Questo vecchietto si voltò verso il mio amico e fece: "Wow, e che tiro che ha fatto questo?" Che è una cosa che secondo me racconta molto della mia città, insomma. E quando uscirono dal bar, rendendosi conto che stava accadendo tutto, e il mio amico disse: "Tu poi ti vai a credere che era il tiro di quello che faceva tremare tutto", questo qui con aria saputa fece: "Beh, hai ragione, quella poi la partita era registrata". È una triste città. Io vi leggo l'ultimo pezzetto di questo racconto, che è l'unico che ho aggiunto alle storie che mi hanno raccontato, che racconta, risponde a una domanda alla quale ogni scrittore onesto dovrebbe rispondere, cioè quando gli chiedono perché scrivi, uno dovrebbe rispondere perché non so disegnare. Dottore, io all'epoca tenevo 22 anni e stavo a Via Stadera. Tenevamo qualcosa di soldi, io sono figlio unico, e stavamo di casa là perché i miei erano cresciuti nel quartiere e non ci si vedevano proprio nei quartieri alti in mezzo a tutti gli scisci, pure se ce lo saremmo potuti permettere. Vi dico la verità, io fino a 19 anni non tenevo voglia di fare niente. Mio padre mi martellava in continuazione: "Non puoi stare senza fare niente, non ti posso vedere dormire per tutto il giorno, la vuoi finire di mangiare a sbaffo, eccetera". E mi diceva pure di andare qualche volta al negozio, almeno a vedere come funzionava questa famosa vendita delle scarpe a Via Chiaia. Mi diceva: "Ma insomma, io devo pagare un direttore delle vendite quando tengo a mio figlio, che è ragioniere, e seppure è iscritto economia e commercio. Ma non è meglio che te li guadagni tu questi soldi?" Io però tutta una passione la tenevo. Mi piaceva disegnare. Lo so adesso, e lo sapevo pure all'epoca, che mica si può campare con una cosa così. Ma lo sfizio, la serenità che mi dava mettermi seduto a un tavolino, a guardare il mare, il sole e le vele lontane verso Capri, e metterle su un foglio di carta tale e quale come li vedevo, non me la dava nient'altro. E poi naturalmente c'erano gli amici del quartiere, quelli di una vita, che ti venivano a chiamare e dicevano: "Gigi, scendi, andiamo un po' a divertirci per via Caracciolo, a sfottere qualche bella guagliona". Ci mettevamo nella macchina decappottabile mia, un Alfa Romeo rossa, che era le sette bellezze, e andavamo piano piano finché non vedevamo un paio di loro che camminavano sul marciapiedi. Ci affiancavamo e dicevamo: "Senti, bella, senti, ma lo vuoi un gelato?" "No." "E allora vuoi una pizza?" "No." "E allora vuoi un'impepata di cozze?" "No." E allora continuavamo con tutto il menù fino a quando quelli si mettevano a ridere e venivano con noi a ballare. Insomma, tutto, passavano le serate e pure le nottate, e l'adolescenza e la gioventù. Io me lo sono sempre chiesto: ma quand'è che si finisce di essere ragazzi? Ci sta una data precisa? La laurea, il diploma, il primo giorno di lavoro, il matrimonio, il primo figlio? Forse la risposta non c'è, o forse ognuno tiene la risposta sua. Nel caso mio, tutto questo giorno tardava ad arrivare. E perché avrebbe dovuto, se stavo così bene? Però un giorno, alla fine degli anni 70, una cosa mi successe. Mi accorsi di una ragazza. Dico mi accorsi perché la conoscevo già. I miei conoscevano i suoi, forse pure i miei nonni conoscevano i suoi nonni. Era gente del quartiere, insomma, ma era più piccola di me di un 3 o 4 anni. Sapete, è una di quelle differenze di età che ti separa per tutta la vita. Io stavo alle medie, lei alle elementari, io alle superiori, lei alle medie, le amicizie diverse, eccetera. Ma poi la vedi all'improvviso e rimani a bocca aperta e ti chiedi: "Ma questa dove è stata fino a mo?" Venne lei da me un giorno che mi pigliava un cappuccino al bar in fondo alla strada alle 3. Si avvicina e mi fa: "Ma come ti pigli un cappuccino alle 3? Io mi abbasso i Ray-Ban e le rispondo: "Ne voglio un c'è, ma fossero fatti tuoi. Poi io stanotte sono andato a letto alle 4, per me mo è ora di colazione, quindi mi bevo il cappuccino". Però era bella, bella assai, di una bellezza diversa, dolce. Fece gli occhi pieni di lacrime, si girò per andarsene, mi fece una cosa nello stomaco, la richiamai, vieni qua, scusami, è che tengo mal di testa. Chi sei? Me lo disse. E io capì chi era e a chi apparteneva e non mi rendevo conto, io me la ricordavo creaturella, con i brufoli e l'apparecchio ai denti, ed era diventata una bellissima ragazza con i capelli lunghi e gli occhi neri, che parevano quelli di un cerbiatto. Mi fa, che peccato. Come che peccato? Le rispondo. Che peccato che uno come te, con un talento così meraviglioso, si butta dietro a quei quattro deficienti dei tuoi amici che ti sfruttano per la macchina e per i soldi. Io rimasi sconvolto. E che ne sai tu di me? Venne fuori, ma dopo diversi giorni che la cominciai a frequentare, che era innamorata di me, da sempre. E che sapeva tutto della mia vita, perché la mamma parlava con la mia. E quella pettegola di mia madre le aveva fatto vedere i miei disegni. Lei addirittura se ne era fatti dare un paio che teneva attaccati in camera sua. Da quell'estate io e Lucia, quello era il nome della ragazza, ci cominciamo a vedere sempre di più. A me piano piano non mi interessarono più né gli amici, né le discoteche, né le guaglioni a via Caracciolo. Mi piaceva stare con lei. Parlavamo solo, dottor. Io certe volte disegnavo la faccia sua e lei si metteva a ridere. E ci baciavamo, ma niente di più. Mi diceva che voleva aspettare. Mi aspettava da tutta la vita e che un altro po' non faceva niente. E allora io mi misi a fare qualche esame. Prima a tempo perso, poi visto che erano tutti contenti, lei e i miei, ci presi gusto. Mi laureai, anche bene. E mi offrirono di andare per qualche giorno a Milano per un corso di specializzazione. Io per la verità non ci volevo nemmeno andare. Ma lei insistette tanto. E dai Gigi vacci, è una cosa bella. Ed è sempre un titolo per il futuro. Quando diceva futuro, mi si scioglieva qualcosa in petto. E ci andai. Il corso cominciava, non me lo scordo più, il 17 di novembre e finiva il 30. In mezzo ci stava il 23 novembre dell'80. Avevamo parlato al telefono un paio d'ore prima, era domenica. Io stavo nel residence e lei al solito stava a casa. Quando non c'ero io non usciva mai, mannaggia lei. Rideva, mi diceva disegna la faccia mia così vedo se te la ricordi. E io, ma perché mi hai voluto far venire fino a qua? Che fa freddo e piove. Appena lo sentì alla radio mi misi in macchina e partii, lasciando tutte le mie cose là. Ci misi meno di 6 ore. Non so come ho fatto, forse ho volato. Piangevo e guidavo. E mi fermavo ogni tanto per provare a telefonare, ma nessuno mi rispondeva. Il palazzo era caduto, tutto. Tutto il palazzo. Come un castello di carte. Come tutti i sogni che tenevamo. La vita è andata avanti. Quando mio padre è andato in pensione ho preso io la gestione del negozio. Ne ho aperto un altro e un altro ancora. Poi uno a Milano e uno a Venezia. Forse quest'anno apriamo a New York. Mi sono sposato. Ho 3 figli. La più piccola disegna, sapete, dottor? Eppure brava. Si chiama Lucia. Io no, non disegno più. Tengo troppo da fare. Disegno una sola cosa all'anno, un ritratto. E lo vado a mettere alle 7:30 del 23 novembre vicino a un certo posto. E il vento se lo porta, quasi subito. Ci metto un disegno e un sorriso, perché lei me lo aveva chiesto di disegnare la faccia sua, per come la vedevo nei miei pensieri, per vedere se me la ricordavo. E questa è una città di gente che sa ricordare. Grazie. Grazie. Grazie. Mamma mia. Grazie. Maurizio De Giovanni, grazie, grazie mille. Grazie. E grazie a Rossana grazie. Mastaro. Grazie. Grazie. Grazie. Devo dire che grazie, grazie infinito, grazie, grazie, grazie, grazie. Ci ha fatti ridere, ci ha fatti pensare, ci ha emozionati, grazie mille. Devo dire che un finale migliore per la nostra manifestazione non poteva esistere.